be home for Christmas, sarò a casa per Natale, anch'io a Natale sarò a casa, beh, da una certa ora in poi, perché l'alba del mattina di Natale io la faccio sempre a Radio 24, ormai è una tradizione alla quale non posso mancare, così faccio gli auguri in diretta agli ascoltatori, insomma... A casa per Natale, quindi una delle cose che stiamo facendo ormai da settimane è preparare per bene i dolci di Natale, perché vanno comprati in tempo, non bisogna andare all'ultimo momento a raccattare quello che è rimasto sugli scaffali. Abbiamo parlato del pandoro, abbiamo parlato del panettone, abbiamo parlato del torrone, abbiamo parlato anche delle bollicine, ma adesso io vorrei... L'altra campana, appunto il pandoro, mi stavo confondendo con le parole perché ci sono tanti fan. Pandoro e non solo, anche dolci particolari, dolci regionali, ovviamente. L'unica persona che ci può illuminare in questo senso è Davide Paolini. Ciao Davide! Ciao! Sì, e beh, ci sono due schieramenti. Pandoro... Tu intanto dici, cioè prendi posizione per favore, abbi il coraggio. No, io ho il coraggio, decisamente, ma... Panettone al 100%. Panettone con canditi? Panettone con canditi, okay, ma okay. Proprio. Però io amo il tradizionale, attenzione, ultimamente c'è un po' di tutto, basta andare in un supermercato, vedi che dentro il panettone ci si sta mettendo di tutto, manca il pesce, ma poi ho visto che c'è veramente i ripieni, sono di ogni genere. Beh, buono il panettone gastronomico, ecco, quello sì, mi piace da morire il panettone gastronomico, però è tutta un'altra cosa, ma... Senza canditi c'è il pandoro e io credo che molte famiglie si dividono il giorno di Natale, soprattutto i giovani. Io ho notato che, diciamo, nella giovane età la gente rifiuta i canditi. Anch'io, per me era così, ho cominciato, è come il caffè, ho cominciato da grande a apprezzarlo. Quando uno comincia a apprezzare i sapori, allora comincia a apprezzare anche questo. Però sai, non è che c'è molta differenza nell'impasto, l'unica cosa è l'esterno. Che ha forma di stella. Perché ha forma di stella? Perché alla fine dell'Ottocento un certo Domenico Melegatti, veronese ovviamente, esiste ancora l'azienda Melegatti, depositò all'ufficio brevetti una scultura di un artista che era appunto un dolce a 8 stelle e quindi a 8 punte, e quindi da quel momento appunto il pandoro ha preso quella direzione. Poi ci sono discussioni, controdiscussioni, se deriva dal nadalin, ecco, questo è il dolce tipico di Verona, forse ancor più del pandoro, è sempre fatto a forma di stelle, ma è molto più basso, e poi però cioè, sono ricchi di burro, ecco, questa è la verità, forse ai giovani piace il sapore del burro, probabilmente che è molto più morbido, è morbidissimo. Però poi detto tra noi, Davide, il fatto che sia ricco di burro mi richiede che sia fatto molto bene, perché sennò è indigesto. Di sicuro, ma poi quando è esagerato anche al palato non è che sia molto buono. È sempre ricoperto dallo zucchero di velo, quello che quando mangi poi ti imbratta tutto, no? Che bello. Di solito. E poi ti devi leccare i baffi di solito. Sì, vabbè. Sì, sì, sì. Comunque il pandoro ha avuto anche questo, ha un successo notevolissimo, perché come dicevo ci sono ormai le squadre pro e contro. Devo dire che io quest'anno vedo un grande ritorno del pandoro sulle tavole degli italiani, perché dopo il boom del panettone che è avvenuto negli ultimi 2-3 anni anche d'estate, il pandoro ha ripreso quota, proprio trascinato secondo me dal panettone, e quindi io credo che quest'anno magari i conti staranno sempre a favore del panettone, però anche il pandoro diciamo che giocherà la sua parte. Dicevo il nadalin è, per i veronesi tradizionalisti, il nadalin è qualcosa di molto importante. Addirittura ha ottenuto il riconoscimento della Deco, quindi è importante come dolce della città. Allora dice, come si può consumare il pandoro? Beh, non c'è molta differenza dal panettone. Forse uno si può divertire nel metterli sopra o dentro qualcosa che non trova nel panettone. Ecco, questo potrebbe anche essere un frutto, oppure un gelato, una crema. Ecco, questo è molto più facile non essendoci i canditi. Però come tu hai detto all'inizio, in realtà l'Italia è straricca di dolci certo, natalizi, ma veramente io direi che si potrebbe fare una mappa dell'Italia regione per regione, soprattutto in Campania, poi in Campania te ne dovrei citare 10 per dire quali sono i dolci natalizi, ma io ci provo un po'. Dai, così facciamo una cartina. In Piemonte abbiamo il tronchetto di Natale, infatti gira per Natale questo tipo di di torta spezzata a metà di cioccolato con dentro un ripieno, ed è tipica del Piemonte. Se andiamo in Trentino abbiamo lo Zelten. Lo Zelten è un dolce trentino molto ricco, come sono tutti i dolci trentini dell'Alto Adige, perché sono pieni di frutta secca, sono pieni di mandorle, di noci, sono molto ma molto ricchi, perché dipendono ovviamente dalla tradizione austriaca. Anche il pandoro sembra che sia arrivato dall'Austria, comunque questo non ha importanza in questo momento. In Lombardia, tu che conosci la Valtellina molto bene, sai che c'è un dolce in Valtellina che va molto forte. Qual è? La bisciola. La bisciola, sì, anche la miascia, però insomma è meno nota. La bisciola valtellinese è molto... La bisciola valtellinese è molto buona, a me piace molto la bisciola valtellinese. Sì, sì. Poi andiamo in Friuli abbiamo la gubana. La gubana, questo è un dolce che dentro, lievitato, che dentro ha un liquore, di solito ha una grappa, la Slivovitz, che è di origine ovviamente che viene dall'est, ma in alcune parti la gubana... In Friuli la chiamano putizza, che è quasi simile a questa, però sai, i fatti regionali sono molto importanti, in questi casi a pochi chilometri il dolce cambia. Beh, in Liguria abbiamo il pan dolce è molto, molto, molto, molto sviluppato, devo dire. Poi ancora, se andiamo in Emilia-Romagna, abbiamo il panone. Il panone, come vedi, però sono tutti derivati da un discorso che parte dal pane, quindi dal lievito, quindi dalla madre acida, quindi dalla lievitazione, e poi dentro ognuno riempie più come vuole. Invece diciamo che in Toscana abbiamo qualcosa di diverso, perché abbiamo il panforte. Ah, mi piace tanto il panforte. Il panforte è un dolce storico che i senesi ci tengono come, non come il palio, insomma, ma ci tengono abbastanza. Mentre in Umbria c'è un qualcosa di simile che si chiama pan pepato. Mm-hmm. Quindi diciamo che sì, ci sono delle differenze, perché l'etimologia lo dice, pane pepato, quindi dove dentro ci sono dei sapori molto forti, a cominciare dal pepe. Nelle Marche c'è il bustrengo, mentre andiamo nel Lazio abbiamo il pan giallo laziale. In Abruzzo c'è un dolce storico importante, perché ne parla D'Annunzio in un paio di volte, ed è il panozzo abruzzese, anche questo è molto molto molto sviluppato. Se poi arriviamo in campagna, ecco qua veramente, come al solito, tra Napoli, Salerno e le altre province c'è veramente da sbizzarrirsi, perché abbiamo le zeppole, gli struffoli. Gli struffoli, che i susamielli. Cosa sono i susamielli? Interessanti questi. Sono a forma di S, impastati con miele liquido. Col miele, sì, sì. Poi abbiamo il rococò. Anche il rococò è a forma di ciambella, per esempio. Dicevo gli struffoli, che sono fritti, quindi sono quelli che magari vengono apprezzati di più, perché il fritto viene apprezzato molto di più di tante altre cose. Che sono quelli a forma di palline. Di palline, esattamente, sì, che sono ricoperti di miele anche questi, perché il miele, diciamo che è un comune denominatore, anche il miele, dei dolci natalizi. E poi ci sono le zeppole che sono delle ciambelline fritte, anche queste dove c'è il sapore dell'anice. E poi ci sono i mustaccioli che sono fatti con mosto 2, sono in molte regioni italiane, non solo, e quindi appunto derivano dal mosto, ma c'è chi dice che derivano anche dai baffi, perché i mustache probabilmente c'è questa origine. In Puglia abbiamo le cartellate, sì, o anche il pasticciotto. In Calabria abbiamo dolci prevalentemente a base di fichi, e in Sicilia abbiamo già parlato l'altra volta della cubaita, che è un torrone molto particolare della famiglia dei torroni, e in Sardegna abbiamo la cebada. Quindi abbiamo fatto un giro dell'Italia dolce e ora non ci resta che bere, perché dopo aspetta, aver fatto... che ci dicono che in Abruzzo è il parrozzo, il dolce abruzzese, il parrozzo. Io non sono preparata. No, e hai ragione, mi sono sbagliato io. E me ne vergogno molto, avendo un nonno nato in Abruzzo, ma non sono preparata. L'osservazione del radioascoltatore è perfetta. Ho sbagliato a dire di panozzo, invece è il parrozzo. L'hai scritto piccolo, Davide. Giustamente, mi è sfuggito. Dicevo che dopo aver fatto questa carrellata di dolci non ci resta che bere, perché devo dire che, cioè, tutti questi, escluso quelli feriti che abbiamo detto, gli altri sono diciamo da dolci, da vini non dolcissimi, perché accostare il dolce col dolce, se, diciamo che per potrebbe anche andare bene, però non bisogna esagerare, perché dolci ad esempio ricchi di burro, insomma, mettere anche il dolce, oppure tutti questi che io ho citato, ad esempio il panforte va mangiato così, il panpepato lo stesso, mentre il pasticciotto, ecco, il pasticciotto pugliese, io lo vedo bene come un ottimo caffè. Io credo che si mangino a fine pasto, e quindi perché no, berci un bel caffè, oppure anche un distillato, perché un distillato va bene. Ora non voglio incitare all'alcolismo, ma però ci potrebbe andare bene. Tanto siamo tranquilli dopo il pranzo di Natale, sì. Non dobbiamo guidare, dobbiamo solo stare un po' sul divano con i nostri cari, un pochino, un oppure goccino. Andare in treno. Ah, certo. Come succede qualcuno, va bene. Ugo che ci scrive, e i calcionetti e i torcinelli abruzzesi e la spongata modenese, che meraviglia, ma sì, a me tirano sì, i pantaloni però, e non ho mangiato nulla, solo a parlare. Attenzione. Sono molti dolci, ci sono tutto l'anno. Certo. Questi più o meno sono tradizionali che si fanno in questa circostanza, magari non le zeppole, gli struffoli, però diciamo che ce ne sono, quelli che ho letto si fanno tutto l'anno, però è tradizione, ma anche il panettone ormai, grazie al sottoscritto, si può mangiare tutto l'anno. Sì, me l'hai fatto mangiare con enorme soddisfazione a luglio. Sì. Molto molto contenta. Davide, noi abbiamo ancora il prossimo sabato, perché lo dico già agli ascoltatori del Sabato del Villaggio, non ci facciamo gli auguri questo sabato, ce li facciamo il prossimo, siamo ancora con una puntata nuova del Sabato del Villaggio in diretta. Poi io e te prepareremo una sorpresa per l'ultimo dell'anno, ma non lo possiamo ancora dire, è una sorpresa. Sì, purtroppo tu hai detto che il giorno di Natale sei lì, ma forse sì. lo sarai anche non dico fine d'anno, insomma, ma durante esatto. Magari fino a mezzanotte, va bene. Dobbiamo salutare, perché vedo già Enrico Pagliarini che sta entrando. Sì, guarda, sta entrando in questo momento in studio, quindi Enrico Pagliarini freme. Io ti saluto, ti abbraccio, ma tanto ci ritroviamo il prossimo sabato. Bene, ciao, al prossimo sabato.